il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Anche nel mondo dell'agricoltura, dell'ambiente, della salvaguardia del territorio, che sono un po' le tematiche di cui ci occupiamo con la trasmissione del quadrifoglio, è importante la comunicazione. Per stare al passo sia con le varie novità anche scientifiche che ci sono ogni anno, ma anche con la normativa che cambia e con le problematiche che sorgono continuamente. Ci sono dei giornalisti specializzati, c'è un'associazione anche nazionale che si chiama UNAGA che li riunisce e che si incarica anche di fare formazione e di garantire che passi un'informazione corretta che, come sappiamo, è la base perché ci sia una cultura e una conoscenza di queste tematiche nel territorio, tematiche sempre più importanti. L'agricoltura sta assumendo un ruolo anche in Italia crescente. Di questo parliamo oggi con Mimmo Vita, che è il presidente nazionale di UNAGA padovano, di recente rieletto all'Assemblea nazionale che si è tenuta a Bari qualche settimana fa. Benvenuto Mimmo. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Ecco, intanto esattamente che cos'è UNAGA e che cosa fa per l'informazione in questi settori? UNAGA, per farla breve, è l'Unione delle ARGA. Le ARGA sono le associazioni regionali dei giornalisti agricoli e ambientali italiani, siamo gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa, sostanzialmente una rete di circa 500 giornalisti specializzati nei settori appunto dell'agricoltura, dell'agroalimentare e dell'ambiente, che stanno insieme per soddisfare le cose che hai detto tu un attimo fa. Quindi la formazione, la correttezza dell'informazione e per essere anche ausilio al mondo agricolo in particolare, dando loro le novità, le allerte sui problemi che ci sono e quant'altro. Ecco, quali sono un po' le tematiche principali su cui si sta focalizzando l'attività dei giornalisti agricoli e quali sono un po' anche le sfide dal punto di vista giornalistico da affrontare per una corretta comunicazione? Ma sostanzialmente, se vogliamo dire, quelli che sono, come posso dire, le sfide proprio che ci sono dietro l'angolo sono due sostanzialmente, oltre a quelle storiche che abbiamo detto, appunto la necessità sempre di essere aggiornati, l'agricoltura come tutti i settori ha visto fortissimi cambiamenti sicuramente tra il secolo scorso e questo secolo e tuttora aggiornamenti di tipo tecnico sono quotidiani. Peraltro la prima sfida, e dopo segnalerò le due che ho anticipato un attimo fa, la prima sfida è quella di dar da mangiare alla gente, cioè la mission dell'agricoltura è produrre cibo, quindi dare energia all'essere umano. Il problema è che ora siamo più o meno 7 miliardi di persone nel mondo, nel 2050 dovremmo essere 9 miliardi e quindi l'agricoltura di fronte ha un grandissimo compito, quello di dar da mangiare a tutta questa gente. I problemi della fame nel mondo sono conosciuti, però tenete conto che non è il grosso problema, il problema è anche la sete e comunque l'agricoltura sta rispondendo a questo. Detto questo, ecco, diciamo che su questo terreno poi la FAO sta facendo un grande lavoro, chiaramente. Certo. Detto questo, le due sfide invece più vicine e forse più semplici, la prima sono per il mondo agricolo italiano ed europeo quello della nuova PAC, quindi la nuova politica agricola comune che sostanzialmente è il grande punto di riferimento ormai per l'agricoltura europea e poi l'altra è l'Expo 2015 che si terrà a Milano appunto nei mesi primaverili e estivi del 2015 e che ha questo slogan nutrire il pianeta, energia per la vita, che sintetizza questa grande mission appunto che l'Expo 2015 avrà. Ecco, parlavi di politica agricola comunitaria, la PAC, c'è l'impressione che ci sia molto poca informazione anche tra i giornalisti, oltre che tra i cittadini, su che cosa sia questa PAC e in particolar modo quali siano le novità. Sì, è certo che innanzitutto per il giornalismo classico chiaramente non ne sa molto di questo, cioè intendo dire i colleghi che fanno giornali, radio, televisione, noi giornalisti di settore è qualcosa di più, ne sappiamo, però teniamo conto che in questo momento la PAC deve essere ancora licenziata dal Consiglio europeo, ormai però gli accordi sono fatti e quindi è solo un passaggio tecnico, e poi dopo ovviamente gli Stati membri e le regioni dovranno a loro volta attuare questa PAC. Ecco perché ancora non si sa molto bene poi quali sono le derivate, sia nazionali che locali, della grande programmazione che l'Unione Europea sta decidendo. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di giornalismo, comunicazione e agricoltura. Lo stiamo facendo con Mimmo Vita, presidente nazionale di UNAGA, che è l'Associazione dei giornalisti agricoli italiani. Si parlava prima di PAC, ma non è solo questo lo scoglio per quanto riguarda l'informazione corretta per un giornalista. L'agricoltura sempre di più si intreccia ormai con molti altri ambiti, per esempio parliamo quello dell'energia, cioè le bioenergie, ma inquinamento e legate non so, agli allevamenti. Ci sono vari temi che si intrecciano oggi con l'agricoltura ed ampliano il campo, cioè non, parlare di agricoltura non è più semplicemente parlare di coltivazione. No, Emanuele, certamente, ma ad esempio più facile, dopo facciamo anche appunto alcune riflessioni su quanto hai detto, ad esempio più facile è quello del connubio che ormai si è creato tra agricoltura e turismo. Gli agriturismi sono l'esempio, ma non è solo quello. Ormai noi sappiamo che il turismo viene mosso in particolare certamente dalle bellezze naturali, che comunque l'agricoltura gestisce in qualche maniera, da quelli dai beni ambientali, ma certamente dall'enogastronomia. E noi dobbiamo essere convinti e consapevoli che l'enogastronomia italiana parte anche dal prodotto con cui poi si realizzano questi piatti straordinari, e sono per la gran parte frutto della grande maestria e capacità dei nostri agricoltori. Grandi prodotti danno grande cucina. Allora, questo è il primo segnale, ecco, della novità. Poi tutta l'agricoltura e l'azienda agricola va verso la multifunzionalità, e quindi ecco l'energia, ecco soprattutto non sprecare più niente, non si butta più via niente dalle deiezioni dei bovini in azienda, anche ovviamente ai sermenti, cioè per esempio i derivati quando fate delle potature, ma anche l'erba stessa, tutte realtà che possono essere gettate, usiamo questo termine, nei biodigestori, che ovviamente poi fanno il loro lavoro e trasformano tutta questa massa in energia. Ma non solo questo, l'agricoltura poi deve dare altri servizi, anche quella della gestione dell'ambiente. Se noi abbiamo dei paesaggi straordinari nel Veneto, in Italia, ma anche in Europa, pensiamo in particolare alla Francia, tutto questo è determinato da un'agricoltura che ha sempre gestito il territorio con grande sapienza. Bene, grazie a Mimmo Vita, e vi ringraziamo anche per il lavoro che fate per garantire un'informazione corretta nel settore agricolo e dell'ambiente, della salvaguardia del nostro territorio. Grazie a te, grazie a voi e buon lavoro. Passiamo adesso ad alcune notizie. La patata americana, chiamata anche patata dolce o batata, per la normativa comunitaria viene classificata come tubero ad alto tenore di fecola nel gruppo dei cereali, mentre per storia e tradizione è sempre stata consumata fresca come un ortaggio. Su istanza della Regione Veneto, l'Italia ha inoltrato la richiesta all'Unione Europea di classificare la patata dolce definitivamente tra la categoria degli ortaggi. La definizione della sua appartenenza non è secondaria, perché potrà contribuire a collocarla in una dimensione adeguata che la valorizzi maggiormente sul mercato. Pochi sanno che questo alimento, proveniente appunto dall'America nel 500, fu introdotto solo nell'800 nelle terre a cavallo del fiume Adige per iniziativa del conte Donà delle Rose come alimento prima di tutto per gli animali, ma la miseria di quel periodo nel Veneto lo fece ben presto diventare un alimento quotidiano per i contadini, soprattutto nella pianura. Oggi il centro della produzione rimane ancora nel medio Polesine, al cavallo del fiume Adige tra i comuni di Anguillare e di Adria, ma anche con poli di produzione a Zero Branco in provincia di Treviso e a Scorzè nel Veneziano. Il calo della produzione di questi ultimi anni ha fatto sì che l'offerta sia oggi inferiore alla domanda. I funghi incontrano le tipicità alimentari e la cultura del territorio è il titolo di una manifestazione enogastronomica promossa dalla provincia di Venezia in collaborazione con le associazioni micologiche, le Proloco, il Consorzio del Radicchio di Chioggia IGP, la Strada del Radicchio di Treviso, la Strada dei Vini dell'Ison e Pramaggiore e le associazioni di categorie agricole. L'iniziativa prevede 12 serate dal 5 al 29 novembre in agriturismi e ristoranti del Veneziano, dove protagonisti saranno menù a base di tipicità alimentari locali. Tengo a sottolineare, ha dichiarato l'assessore provinciale all'agricoltura Lucio Gianni, che non si tratterà solo di serate conviviali di mangiare e bere fine a se stesso, ma l'occasione di far incontrare e discutere per favorire la nascita di nuove collaborazioni tra istituzioni e associazioni di categoria, con l'obiettivo di avere ricadute positive sulla promozione delle tipicità e delle eccellenze. Informazioni sulle serate e dell'intero calendario si può trovare sul sito internet della provincia di Venezia. I produttori di prosecco del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono preoccupati della presenza in Croazia di una denominazione vinicola chiamata Prošek. Non sono possibili due denominazioni che richiamino similitudine l'una con l'altra, ha precisato il presidente del consorzio tutela Prosecco DOC Stefano Zanette. E in questo caso avviene che la Croazia produca un vino che ha una sua specificità, che noi non neghiamo assolutamente, e che ha caratteristiche completamente diverse dal nostro, ma è da evitare l'assonanza di due nomi che all'interno dell'Unione Europea non possono coesistere. Se ciò avvenisse, continua Zanette, si creerebbe una falla nella tutela della nostra, ma anche di altre denominazioni europee, fatte per garantire al massimo il consumatore. E in pratica si potrebbe creare quello che è successo con il Tokaj, prodotto in Italia e in Francia, con una decisione che ci fu avversa. Noi abbiamo già avuto contatti informali con i produttori croati, conclude Zanette, e la loro idea è quella di andare a richiedere una nuova denominazione legata alla Dalmazia. E nel momento in cui l'Unione Europea dovesse prendere in considerazione questa richiesta, ci faremo sentire. Anche per questa settimana è tutto, vi ringraziamo di aver ascoltato la nostra trasmissione, potete risentirci sul sito internet www.bluradioveneto.it cercando il quadrifoglio. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.